chiara, però forse sento un leggero ronzio sotto, non parlare, ma solo portante. Eia, c'è una alternata sotto. Eia, ok, Marco, tu ci sei o sei con Rix? Masticando. Ho la bocca impegnata. Un attimo di bianco per me. Eia, Giulio, ci sei? Sì, sono io. Sono io, Marco. Eia, sente la timbrica. È bella la timbrica di quel... quando è ben regolata è buona. Dai, devo riprendere con Chiodo, perché io sto mangiando e non riesco a fare due cose, dai. Dai, Giulio, buona serata, io sono ancora X. Poi se riprende Roberto, che adesso è al telefono. Vai, Giulio. Ciao, vabbè, sto guardando il computer, dai. Ci sentiamo un altro momento. Sto seguendo, ma sto guardando il computer. Ok, Giulio, dai, ci sentiamo. Chiodo, io, dai, sono qua, ma sono solo in ascolto. Riprendi. È al telefono, ha detto. Ehi, sono rientrato adesso, la risposta adesso. Ok, ne fate per caso qualcuno. Prova a mandare il portante muto. Si è un po' abbassata il ronzio, l'alternata, però ce l'hai sempre. Non so se dipende dal microfono, da qualche massa o dall'alimentazione dell'apparato. Questa è un base, è stata una base. Ma c'è anche qualche ventola? Magari può essere anche quella ventola lì che disturba. Poco a poco si sente, ma non è fastidiosa. Poco fa era un po' più fastidiosa. Ok, lasciamo un attimo di bianco, vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare, se no riprendi tu. 2 secondi di bianco. Vai, Claudio. Quando è? Ok, rieccomi. Stavo facendo avanti ieri che sono entrato, mi sembra c'era Gianni, poi chi c'era? Luca, forse c'era Marco, 2 o 3 persone, ma non più di tanto. Claudio l'ho sentito l'altro giorno, era passato in officina, ma è impegnato per questo fatto della casa, c'aveva dei documenti da sistemare, più c'ha cose più importanti dalla radio, un divertimento, quelle sono cose più interessanti e più importanti soprattutto. Non ieri, avanti ieri sto parlando, sì, su 10. No, non ce l'ho presente, però sta uscendo una meraviglia, bella chiara, pulita. Cos'è il microfono che sta utilizzando? Ehi, aspetta se sei giusto di livello, quello non l'ho guardato, un attimino. Prova a parlare. E quanto c'è il livello questo? Beh, prova a sollevarlo al massimo, solo per curiosità, e poi lo rimetti al 5. Mi fai un passaggio, dici, questo è a 5 e questo è al massimo, così vediamo cosa cambia. Non è cambiato niente, poco, ma una cosa impercettibile. Chi è questo che sta parlando? Cos'è preparazione? Santiago, forse erano spagnoli. E i toni quanto ce li hai, Claudio? Prova a metterli tutto a manetta, solo per vedere delle prove. No, lascia perdere, rimetti tutto a zero va benissimo. Aspetta, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, chi vuole entrare qua? O è qualcuno da lontano, perché Santiago 7-8 qua. Attenzione, chi vuole entrare sul canale 10? Riprendi tu, Claudio. Allora, adesso a zero il microfono, tutto chiuso il tono. Sì, e il volume del microfono quanto è? E dalla radio quanto è il Mickey Gain? Prova a sollevare quello della radio al massimo. Fa un passaggio più lungo? No, va meglio così allora. E il microfono ce l'hai a 5 tu. Prova a metterlo al massimo. Il microfono solo una prova, ma credo che peggiori. Ma è strano, non amplifica niente, cioè da mettere al massimo non cambia niente qua. Adesso c'è tutto al massimo, microfono e radio. Allora, adesso proviamo a provare un passaggio più lungo fai. Allora, puoi lasciare anche così, non stai distorcendo se entro i limiti. Abbassa un peluzzino, mettilo tra 5 e il 10 la radio, mi chiede il microfono. Allora, lascialo così, va benissimo, anche se ti porti dietro appena queste ventole o questo rumorino di sottofondo. Però la radio è buona adesso, più forte. E credo anche più chiara mi sembra. Sì. Allora Claudio, adesso visto che tu sei un po' lontano, io adesso cambio una radio e mi dici cosa cambia di microfono, cioè di modulazione. E mi memorizza bene questo passaggio, attenzione, canale 10, 27, 075 e poi ti cambio la radio e mi dici cosa è cambiato. 1, 2, 3 prova radio, guarda cosa è successo, se è cambiato qualcosa, se è più bassa la radio. Scusa, non avevo cosa inserito, guarda un po' adesso, 1, 2, 3 prova radio, addirittura, e adesso guarda un po', 1, 2, 3 prova radio, ora attenzione prova radio, 1, 2, 3 prova radio, guarda adesso cos'è cambiato qualcosa, ora, vabbè dai, ritorno con l'altra allora, sto facendo delle prove, guarda adesso 1, 2, 3 prova, vedevo regolare, vabbè l'altra volevo regolata allora, vabbè quell'altra è una radio più seria, però bisogna utilizzare un microfono regolato diversamente, dai. Ok, questa piatti e vai. Sì, sì, no, no, ma sì, sì, ti ripeto, stai uscendo la grande, benissimo, forte e chiaro. No, no, sta andando benissimo, bella, chiara e pulita. Frequenti metto ne aveva uno, tipo che conosce Luca Flipper, ne stava vendendo uno, ma proprio a prezzo ridicolo, mi chiedeva a Luca, io ho preso una ventina di euro, te lo dia, perché stava vendendo tutto in blocco, mi pare 100-150 euro, c'erano alimentatori, qualche baracchino, cose che a me non interessava, tra cui c'era anche un frequenzimetro della ZG, mi sembra, quello economico, niente di particolare, però per fare piccole regolazioni già va bene. Ehi, me l'avevi detto l'altro giorno, il B310 comunque, quello nero leggermente inclinato, diciamo, quella è una radio abbastanza, diciamo, niente di particolare, magari sono un po' limitate, basta uno smalto di corrente, ma dispiace per il 757, quella è una radio importante, per cui, ma penso che la mettete a posto, ce l'avete in buone mani e non ci sono problemi. Purtroppo quando capitano queste cose, stranamente però che sia riuscito a fare questo danno è un po' così, ma sono sicuro che non ha niente di importante, dai. Se tirava pochi watt, magari qualche piccolo componente, qualche condensatore in perdita che magari non ti dà la tensione nominale e non riesce a far funzionare il circuito. Ehi, ma è tuo babbo, ma sta lavorando, ma sta facendo? Tuo babbo, il problema, c'aveva quel problema di coso, dalla schiena. Ehi, infatti avete esagerato con le dosi, dai, no, l'acqua. Quell'acqua lì poi, a meno che non era inquinata per altri motivi, ma quell'acqua che avevi nominato l'altro giorno è un'ottima acqua, niente da dire. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare, attenzione 10, che vuole entrare con la buonasera. Io sento questi lontanissimi, non possono essere quelli di Ozziri. Ehi, aspetta, lascio un attimino di bianco, voglio capire se è propagazione o che cos'è. No, adesso è basso basso, proprio si sente in mezzo al QRM, non proprio non riesco a capire quello che dice poco fa. È arrivato anche più forte, anche quasi 9, anche a 8 era. Vabbè, probabilmente non è propagazione, non lo so. Ok, cosa volevo dire? Diamante, beh, uscendo sei di nuovo alla Spagna, ci stai andando ancora. No, domenica sono andato a cosa? La gente era sembrava in Piazza d'Italia, la gente che c'era pieno di camperisti, un sacco di... però una bella giornata pure. Poi ho detto che stavo provando a passare in questo parco che c'è di Lugantaro, che c'era il mondo, infatti non ci hanno fatto entrare, ha detto no, è tutto Saturno, bisogna prenotare, telefonate, perché poi stavano aspettando una cosa di scout, un paio di pullman di scout, mi ha detto no, non si può entrare, non c'è posto. E poi mi hanno spiegato un amico che dice c'era qualche manifestazione, perché c'era un sacco di gente, non so se è mai stato di lì. Sì, sì. Cosa volevo dire? Sì, però adesso voglio provare anche altre zone. Forse vabbè, domenica non è tanto bello, se no non è salito a Salerno, ci sei mai stato. Bellissimo, uno dei posti più belli e non troppo lontano, con possibilità di fare picnic e cose del genere, perché c'è tutto a disposizione, ci sono i barbecue, è bello per quello, poi c'è tanta acqua, ci sono le fontanelle, le sette fuente, se ci vuol dire sette fonti in spagnolo. Ti posso dire, l'acqua è eccezionale, buona, e poi anche divertente perché c'è in mezzo a dei boschi di castagno, sta benissimo. No, San Leonardo lo consiglio a tutti, bellissimo posto. No, San Leonardo è poco dopo Macomedi, lì vicino San Leonardo e Sette Fuentes, di quanti chilometri sarà da 10 km da Macomedi. Poi è molto una tappa di turisti, vanno bene, perché poi non si paga, nel senso che tu puoi entrare, ormai sta diventando tutto a pagamento. Quando entri nel coso, nel bosco che c'è di dentro, c'è servito benissimo, c'è tutto a disposizione, c'è anche il coso per fare i barbecue, bei tavoli grandi, nessuno ti rompe le scatole, addirittura puoi prendere anche le castagne, nel periodo c'è scritto senza rompere i rami, da nessuna parte ti permettono di fare quelle cose lì. Poi c'è sempre qualche bancarella, qualche cosina, se uno vuole prendersi qualche fesseria, dei souvenir e cose. E poi c'è dove c'è la fabbrica dell'acqua Sette Fuentes e dell'aranciata, delle gazzose pure. Ecco, eia, Gianni, mi ha mandato un messaggio adesso Gianni, ottima radio, scusate un attimino, ottima antenna, prestazioni sembrano credibili, non sono inventate tipo radio, tipo altre antenne, e bisogna provarla in cosa, in loco, l'ho guardata così in travista, le dimensioni e cosa, una 5 ottavi, come costruzione sembra anche fatta bene, ti rilancio Gianni a Claudio Damuros, così ti saluto. Ciao Claudio, ricambio al 100%, buonasera, sono entrato giusto per salutare, non mi posso trattenere tanto, che sto facendo della roba al computer, sì, salutoni a tutti, e niente, adesso ti ascolto bene Claudio, poc'anzi stavi portando qualche segnale a prezzo e facevo difficoltà a sentire. Adesso bene o male l'ultimo passaggio è, riesco ad ascoltarti meglio, dai. Per Roberto, se riesci a, perché forse come alzi il tono della voce va leggermente in distorsione, se riesci appena appena, ma veramente si tratta veramente di pochissimo, se riesci a, appena appena abbassare il mic gain sarebbe ottimale. Ehi, infatti ero un pelottino sopra di uno, poi ho alzato la voce, no, questo è troppo sensibile, ma come stavo uscendo senza processore, metto che ero un mazzo di radio, ma che cazzo è successo? Poi c'era proprio il processore, però non ho rimesso in posizione il mic gain, probabilmente adesso sono ritornato standard di questa, ma di questa radio. Sì, adesso ti ascolto meglio, perché a seconda dei picchi andavi oltre. Questo qua, questo per quanto riguarda me. Ho sistemato la radio e l'ho messa alla potenza originale, 4 watt modulati 5. Non so come mi ascoltate, aspetto i referti, dai. Allora, io sono il più vicino, io ti do un rapporto radio Super 5, chiara e pulita, e segnale 9+20. Adesso ti rimando al più lontano, avanti Muros. Ehi, sì sì, ho rimesso i watt originali, dai. Ho rimesso il watt originale, ho visto che tra l'altro ho guadagnato anche qualcosina a livello di picchi positivi, vedo che il lago dello Smith si agita, lo vedo un po' agitato nel senso buono, dai. Sì, vabbè, ti ho mandato il materiale che mi ha girato gentilmente Marco su questa antenna della Grassioli, a quanto pare questo Grassioli è il fondatore insieme al fratello di una nota marca di antenne. I due fratelli sono separati e questo signore si è messo a costruire l'antenna. Dal video che hai visto, girato da Francesco Radio Killer, che è una persona abbastanza competente, l'ho visto, mi sembra a parte i materiali di ottima fattura e tutte cose, mi sembra un buon progetto. Adesso dovrebbe fare qualche video sulle prestazioni. Vabbè, non ho intenzione di comprarla, era giusto così a livello di curiosità personale. E niente, mi sembra un buon prodotto e infatti ho pensato alla cosa e te l'ho girato, dai. Sì, sì, ti ringrazio. No, guardandola così, per quel poco che ho visto, e guardarmi un pochettino tutti i dati, i diagrammi, eccetera. E i dati di coso, di rendimento sono credibili, perché se leggi la manta ma ti danno un guadagno di 6 dB/min, ma stiamo scherzando, neanche a parlare, almeno qua hanno messo valori credibili, un decibel e mezzo. Rispetto all'isotropico, per cui sono valori molto credibili. Le dimensioni dell'antenna, ho visto il radiale, sono un po' più grandi dei soliti della Mantova 1. Il materiale, per quel poco di immagine che ho visto, così ho sfogliato adesso al volo, sembra anche buoni materiali, di buone dimensioni i componenti dell'antenna, per cui questa deve, per uscire sul mercato deve avere delle prestazioni se non uguali o leggermente superiori alla Mantova, per cercare di attirare l'attenzione, e poi naturalmente deve avere un prezzo ragionevole e conveniente. Adesso vediamo un pochettino come si evolve il mercato, vediamo un po'. Sicuramente guardandola così sembra una buona antenna. Ok, rilancio il mic a te Gianni e poi farai girare per Claudio. Ia, ti ripeto, me l'ha girato Marco. No, ho controllato per curiosità, ho visto il video dell'unboxing, come si dice in gergo adesso, su YouTube. No, mi ha stupito veramente la fattura del materiale, cioè si vede che è roba buona, cioè perlomeno sono riuscito a percepire questo, dai. Poi sicuramente Francesco, come ha promesso, farà un altro tutorial per mostrare l'efficienza dell'antenna, e a quanto ho sentito nel video farà sicuramente anche un paragone con altre antenne di pari prestazioni. E questo è quanto, dai, avanti Claudio. No, allora, le caratteristiche di questo tipo, ripeto, l'ho vista così e sembra un'ottima antenna. Naturalmente non pensiamo di avere delle cose, dei miracoli, perché qua stiamo parlando di dimensioni fisiologiche delle antenne, per cui i valori di rendimento sono più o meno uguali. Qua bisogna guardare anche la costruzione, prima di tutto, perché le dimensioni sono più o meno come la manta, ma forse leggermente più alta della manta, ma soltanto questi radiali di base, alla base un pochettino più grandi. sicuramente almeno come lavato, ma come dimensioni dovrebbe funzionare uguale. Poi bisogna vedere tutto il resto, a lunga distanza, l'angolo di radiazione, se è lungo, se è stretto, se è alto, se è basso, ne avete tante cose, bisogna fare delle, perché ci sono sempre dei compromessi su certi tipi di antenne, magari spingi un po' più lontano, però a breve distanza magari non funziona. Bisogna vederla e provarla una con l'altra, strumentalmente, metterle una a fianco all'altra, a parità di apparati, così si fanno le prove, solo così si riescono a fare. Francesco, se lo dice anche nel video, si è ripromesso di fare questa cosa qua, i vari confronti e diciamo i paragoni, dai. Ragazzi, come promesso, come vi ho detto poco fa, non mi posso trattenere perché sto facendo roba al computer e se mi distrago poi perdo il filo del discorso, dai. Vi saluto e rimando i prossimi QSO a presto, dai. Saluti da parte mia, ciao Claudio, Roberto e gli ascoltori sul 10, ok? QRT esecutivo a parte mia, vi saluto, buona serata, ciao ciao. E a Gianni, buon proseguo, dai, ci sentiamo alla prossima. Ok, avanti a te Claudio. Sì, no, sto guardando anche con le immagini a colori, a livello costruttivo sembra anche fatta bene questa antenna. Diciamo, secondo me è una copiazzatura della mandorla, perché vedo il principio con questa bobina fatta in superficie nella parte alta, a vista, si assomiglia molto alla mandorla, probabilmente la stessa scuola. E l'attacco del PL l'hanno migliorato, anziché metterlo quello un po' economico della mandorla, è lateralmente sull'ostello centrale, il fissaggio anziché essere sul piantone e inserire nel palo, hanno fatto un sistema migliore in modo da non avere rompimenti di scarte. No, la cosa costruttiva la vedo molto molto molto fatta bene questa antenna. Ma che cosa? Vuole tarata, naturalmente queste cose quando fai questi lavori ci devi centrare, siccome i radiali, diciamo quelli del piano di massa, sono un telescopici allungabili, lì devi cercare di trovare il compromesso di accordo migliore. Le altezze, no, non è niente, uno se c'è un po' di esperienza è tipo la mandorla e basta, non ci sono parti da accordare, perché la bobina quella grande, le spine sono già calibrate, le devi soltanto stringere, cioè la fotografia è abbastanza chiara, ho visto anche i valori di coso, di larghezza di banda è abbastanza larga, almeno dichiarano da 26 a 30, il rosso almeno tipico non è altissimo, naturalmente poi sono tutte cose da verificare, però guardando l'antenna mi sembra un'evoluzione, un miglioramento della mandorla, perché mi sembra la stessa scuola, la stessa mano, almeno come tipologia d'antenna. No, ma ripeto, già la Mantova c'ha grande fama e grande esperienza, la gente ce n'è tanto, per cui se questo è lo stesso progettista si vede che la tipologia di antenna è molto molto simile, è un miglioramento però rispetto alla Mantova, perché il piantone l'hanno migliorato, anziché usare quel piantone in vetroresina di fissaggio dentro un palo, di inserimento del palo, hanno messo le strappe, la strappatura che è molto più semplice da lavorare, poi l'attacco della bobina a massa sotto è fatto con un materiale diverso, diciamo anziché molto migliore, anziché usare quel pezzo di filo a morsetto, qua utilizzano direttamente la piattina, no? Io ho visto c'è acciaio inox, molto acciaio inox, il piantone è molto ma molto migliore della mandorla, e ho visto lo spessore dei tubi telescopici di inserire uno con l'altro, sono abbastanza grossi, per cui se l'alluminio è di buona qualità potrebbe essere solo migliore della mandorla, poi la tipologia è molto simile, non credo che ci siano differenze di guadagni, perché almeno i valori più o meno sono simili a quelli della mandorla, anche se la mandorla va a dichiarare prestazioni assurde, impossibili con una verticale, solo con le direttive. Dopodiché, cosa stavo dicendo? La potenza che regge è dichiarata almeno 5 kW, poi vabbè, bisogna verificarla, però almeno 5 kW, se li metti 1000 watt non la sciogli, al contrario di antenne da 5 ottavi che basta che dà un po' di potenza e si tronca in dubbi. No, secondo me è un'antenna buona, simile, molto simile alla mandorla, per cui secondo me dovrebbe rendere bene come la mandorla. Un'antenna diciamo che da tanti anni sui tetti, ne ho visto tante, decenni, eppure sono robuste, mentre altre antenne di altre marche a rubrimo vento dopo 4-5 anni tac, si spemari, non dico che siano piazzate in modo esemplare, però io ho visto Mantova di 30 anni montate sul tetto e sono ancora efficienti. Vabbè, l'alluminio, poi esistono diverse tipologie di alluminio, diversi spessori eccetera eccetera, è come il metallo, c'è di prima qualità il ferro, poi si arriva sino all'inox l'acciaio, per cui ci sono modi di fare economia, utilizzare prodotti di scarsa qualità, di prima, seconda, terza scelta, ci sono tanti modi di risparmiare, nessuno regala niente, questo è un presupposto per tutti. c'è da dire una cosa, il vantaggio di questa antenna nuova, se deve entrare nel mercato deve darti un prodotto ottimo, per cui per cercare di attirare clienti, non ti può dare Mondetta. Ho visto che ti dà 3 anni di garanzia, al contrario delle altre che te ne danno 2, e per non dire anche uno qualcosa, questa ti dà già 3 anni, vuol dire che è già un prodotto abbastanza di qualità. Poi naturalmente tutto dipende anche come le installi, perché se tu l'antenna la installi male, prende troppo vento, troppi contraccolpi, l'effetto frusta si chiama, per cui anche una buona antenna se non è montata bene fai danno, soprattutto nelle parti basse dove sbatte, e poi anche il problema sono tu che l'hai installata male. Io la mia ce l'ho da 2004, grazie a Dio ha preso di vento, dove sono io ne prende di vento, perché il maestrale entra in pieno, il levante eccetera, la prende, oscilla, però ho fatto un bel lavoro, i tiranti messi come devono essere messi, utilizzando dei materiali di qualità per fissarla, non Mondetta, tutte le cose dove si può mettere, utilizzando cavo buono eccetera eccetera, per cui ci sono i tiranti regolabili, anziché usare cavetti soliti, cioè cavo nautico in nylon, nylon nautico, e con i suoi tirantini, tutte le redanze in accoso, l'acciaiolino, ho fatto un bel lavoro, non perché l'ho fatto io, però prima di farlo ho fatto uno schizzetto, un progettino, con le distanze calibrate in modo di evitare i colpi di frusta, doppi passati dei tiranti, l'antenna sta sempre andando, grazie a Dio, facendo le corna, ne è un'altra di scorta, una turbo, facendo le corna sempre, se dovesse rompere è pronta l'installazione. Ok, avanti a te. No, il cavo è importante, una volta che metti l'antenna metti il cavo buono, non devi mettere il 58, non che non devi fare spezzoni, ma per fare tratte oltre 7-8 metri è sempre meglio utilizzare 213, c'è poca differenza di prezzo, però c'è tanto miglioramento, sia come disturbi, nel senso ti crea meno problemi, soprattutto come rivestimento, spessore di cavo, quantità di rame, eccetera, la trasmissione del segnale è molto molto migliore. Poi ci sono cavi superiori a 213, però anche quello è un buon cavo. Ehi, aspetta, lasciamo un attimino di bianco, se anche qualcuno vuole entrare, attenzione 10, chi vuole entrare, 2 secondi di bianco, se no riprendi tu. Cosa cerco? Tu sei Antonio. Sì, perché? Mi senti male? Boh, attenti, Gunno, sei solo da segnare, perché sei un una voce grossa. Aspetta. Adesso va meglio? Molto meglio, non ho capito cosa combini tu ogni volta. Sto usando l'857, capito? C'avevo il coso, il tono moderno dalla tappella, capito, perché lo uso di solito, quindi il DMR, questo apparato qua, invece il 27 uso il 3009. Ok, c'è anche Claudio Lamuro, tutto lo rilancio, avanti Claudio per Antonio. Qualche cosa, ci sono le canali, ci sono in banda laterale, arrivano forte, 9, 10, figurati. Sta cominciando a darci preparazione questi giorni, ma meno male ragazzi, di solito c'è sempre quel remi, avanti vabbè. Infatti allora anche io poco fa ho sentito, c'erano dei segnali, però erano in AM, ho ribada laterale qua sul canale 10, ho sentito qualcuno quasi 9, 8 di segnale, poi un paio più basso, eccetera eccetera. No, stai uscendo forte e chiaro adesso Antonello, non so quanto li stai dando, però stai arrivando 9,60. No, anche più fatti suoi sto uscendo, i suoi originali, che mi ha messo Marco, adesso non mi ricordo Marco quant'era, figurati tu. Questa apparecchio era il suo e me l'ha venduto lui, poi io non l'ho mai né salato né toccato, non ho fatto mai niente, l'ho visto di solito qua per andare in PMR e basta, e che altro, per entrare in 27 uso il codice 4000 e 3009, quello che capita. No, stai andando alla grande, pulita, chiara la voce, niente da dire, avanti a te Claudio. Anche l'altro giorno c'era propagazione, però io ho ascoltato in radio FM, diciamo, 8808, c'è un sacco di radio, che anche con la radiolina piccolina arrivavano segnaloni allucinanti, oltre 9 arrivavano, sia dalla Francia che dalla Spagna, ma sopra schiacciavano dei canali spagnoli, schiacciavano anche canali qua vicino di Alghero, talmente non fu. Sì, figurati. No, la Russia qua la prendo in pieno io, in questa zona dove sono io. Arrivano a fondo scuola di solito qua, la Russia, Polonia, eccetera, eccetera. Sento addirittura i taxi, sento. C'è un ponte che me la colgo subito su canale 6 in FM. Normale, c'è un ponte Papagallo si chiama. Tu schiacci e ti senti la voce tua, capito? E mi ripeto, mi è stato a giocarmi. è un ponte che c'è lì dalle parti della Podolia, roba del genere. Tu che non sei la somma di solito di si sentono quelli. Quando c'è propagazione, io vado su in FM, schiaccio portante, se vedo che sento la mia voce dopo che io finisco di parlare, col bip finale, allora gli dico, ho beccato la c'è propagazione, mi diverto, capito, a fare citare quel ponte e farlo, perché mi metto a vendere cacciucci, banane, hai capito? Qualcuno già risponderà. E comunque c'è un po' di attività. C'è su Facebook uno che fa le cose in diretta, capito? Poco fa l'ho beccato, non sono andato a fare questa novella lui, sentivo questo telecanale che stava parlando lui, figurati tu, lo sentivo anch'io, segnale 9 mi stava arrivando, sentivo anche a lui addirittura in 27, solo che con terminale 9 ho provato a chiamarlo liscio, un tubo mi ha sentito quello delle canali, hai detto prima di dire il culo. No, non è così difficile fare collegamenti con il canale, capisci? Siamo aperti io e Roberto per il canale, ci abbiamo in pieno qua. C'era una ragazza, te la ricordi, Roberto, quella ragazza che parlava dei canali, sembrava far fuori i due, sembrava. Ci parlava Antonio, quello che abitava a Monserrato, tutte le mattine e tutte le sere. Non l'ho più sentita, quella è vestita che ha preso e venduto tutto. Sì, me la ricordo quella ragazza, non mi ricordo come si chiamava, ragazza o donna, non so chi era, tante volte lo sentiva, era sempre in frequenza sia mattina che sera quella lì. No, il canale è tantissime volte, ma arrivano molto furti qua. Io quasi tutto, non dico tutto l'anno, però senza arrivare d'estate, anche d'inverno capita tante volte di parlare del canale, siamo molto aperti, è un tiro di schioppo qua, tutto pulito. Poi non è tanto la potenza, perché lì è questione soltanto di riflessione e di segnale, perché anche con Mezzovatt, una volta che coso, che prendi, che c'è propagazione ionosferica, puoi fare collegamenti intercontinentali. A me mi è capitato di parlare anni fa, non so se me l'avevo detto, con la Patagonia, a sud del Cile, la parte bassa vicino al Polo Sud, il collegamento più lungo che ho fatto, questo era, trasmetteva da un faro di lì, nella Patagonia, un qualche scuglio, qualcosa del genere, lui c'aveva potenza però, lui dice c'aveva 3 kW questo qua, parlava un pochettino, parlava lo spagnolo, però si capiva anche qualcosina di italiano, e a me mi ascoltava poco, però mi ascoltava, era in direttiva lui, era un faro della zona del sud del Cile, in Patagonia. E tipo su, siamo stati più di un'ora a parlare, alla fine poi ho chiuso perché era tardi, di notte, perché di lì c'hanno un fuso orario diverso, loro era un altro orario, non so quante ore sgarravano, per me erano mezzanotte, di lì forse saranno state le 4 del pomeriggio, non lo so. E l'ho ascoltato benissimo, per più di un'ora siamo stati collegati, sono quegli episodi che ti cambiano. Io ho parlato con gli Stati Uniti, con tutto, l'unico posto, diciamo, di posti lontani, che non ho mai parlato, è l'unico che credo l'abbia fatto in giugno, con l'Australia, gli altri posti, tutta l'Europa l'ho fatta, tutto lì, vabbè, Cina non lo so perché non ne capiamo niente, però tutti i paesi dell'est, Serbia, tutti i Balcani, Russia, Polonia, Croazia, Belgio, Germania, Inghilterra, Francia, ho fatto tutto. Mi manca di lunga distanza il coso, l'Australia. E quella è. Con digitale ce la parli con che diavolo vuoi, basta che ci metti il computer e la parola trova da solo e colleghi tutti, capito? C'è un programma, c'è, poi gli schiacci e alla tutta la zona e colleghi tutto il mondo. Io non ho pazienza a usare il computer, mi c'è una gana. Di sapere un po' di inglese anche, non è roba per me l'inglese, ormai sono vecchio. Ma c'è anche quello per il cellulare, CB Talk, con quello ti scegli la nazione, io ci ho memorizzato l'Italia, la Spagna e gli Stati Uniti e poi un altro paese, un altro, vabbè, di lì non c'è mai nessuno, però gli Stati Uniti ho parlato diverse volte con CB Talk, a chi piace il genere di cosa, non è la stessa cosa della radio analogica, diciamo, però anche quello ti dà qualche divertimento. Ok, avanti a te Claudio Lamuro, avanti. No, questa non la conosco, conoscevo quell'altra che mi ha detto Salvatore Maestrale, quello che è con l'Austria, che l'abbiamo provata, proprio l'ho lasciata perdere, lo stesso una radio amatoriale, c'è cioè, anziché l'Alan 48, però devi mettere i contatti telefonici, tutti i contatti telefonici che c'hai, tu aderiscono a questo gruppo di coso e parli come una radio. Avanti a te, Antonio. Sì, c'è solo l'applicazione, un po' di cazzo quando mi vedere quando ci sarà il 5G operativo, ti sarà poca Europa, vedrai. C'è solo l'applicazione, ma comunque ho visto che parecchia gente sta rientrando in 27 su Facebook, c'è parecchia gente che si sta mettendo in accende l'apparecchio e si fa le registrazioni in diretta, DDX e cose del genere, capito? A volte c'è pallone in due, a volte pallone in quattro, non è che ci sia molta gente, hanno i canali sull'11 o su 14 oppure 27855, capito? Stanno lì per parlare in UDM e banda laterale, perché è la frequenza più pulita. Infatti c'è lui che usa il President Jackson, nero, e fa i filmati in diretta. Ok, lasciamo un attimino di bianco, se nel frattempo entra qualcuno, attenzione 10, che vuole entrare, vai tu Claudio. Ehi, ciao Claudio, ci sentiamo, stai bene, buon credito, buon tutto, buona cena. Sì, Sanremo, Merigetta si è lamentata perché dice non ci ascolti, mi sa che non dura molto. Un Sanremo del genere, per carità, non vuole neanche farlo dove, no? Che se sembra di andare in una partita di calcio senza spettatori, cosa la guardi a fare? Siamo messi bene, roba c'è in Italia. Adesso purtroppo questa roba fino a quando non trovano una soluzione. Ok, ti saluto Claudio, buon tutto, buon proseguo, anche io adesso stacco perché ci stanno venendo gli angurini dalla fame, dai. Ok, per cui saluto a tutti, saluto Antonello, Claudio se ci sei ancora e tutti gli eventuali ascoltoni su canale 10. Ciao ciao, correti da parte mia, ciao. Ciao ciao, ci sentiamo domani.